Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi ho una cosa bella da raccontarvi. Voglio parlarvi di un successo della ricerca che è frutto della collaborazione tra design e innovazione tecnologica, che ha vinto un premio molto prestigioso. Ma non voglio raccontarvi di più, voglio farmelo raccontare direttamente dai nostri ospiti. Infatti ho una coppia speciale, un ingegnere e un designer, l'ingegner Matteo Lafranchi, che è ricercatore all'Istituto Italiano di Tecnologia, e il dottor Lorenzo De Bartolomeis, designer di DDP Studio. Buongiorno a tutte e due, grazie e complimenti. Buongiorno. Una coppia per parlare di Annes, la mano protesica proprio sviluppata dai ricercatori del Centro Protesi INAIL e dall'Istituto Italiano di Tecnologia e firmata dai designer del DDP Studio. E infatti oggi abbiamo con noi l'ingegnere e il designer che ci raccontano come sono arrivati a questo successo, che è un successo che ha meritato un premio molto prestigioso. Partiamo da qua, il Compasso d'Oro 2020. Ingegner Lafranchi, dottor De Bartolomeis, parliamo del più antico e prestigioso premio di disegno industriale. Che emozione vincerlo, dottor De Bartolomeis. Ma sì, un'emozione grandissima, cioè per un designer è un premio che vale una carriera in sostanza. Io l'avevo un po' già conosciuto perché sono cresciuto nello studio di Isao Osoi, che è stato il mio maestro, che ha vinto 4 Compassi d'Oro, quindi avevo un po' questa premio davanti. Insomma, si stava allenando, si stava allenando, stavate correndo. Mi raccontate di Annes, nata proprio direi da un lavoro di squadra, ingegner Lafranchi. Sì, guardi, Annes è un progetto che è nato da un lavoro di ricerca che poi insomma sostanzialmente è applicato direttamente al paziente, quindi quello che abbiamo fatto noi insieme ai colleghi del centro protesi INAIL di Budrio e ovviamente insieme ai designer di DDP Studio è stato quello di andare a trasformare una mano robotica in una protesi di mano. E la sinergia è stata forte fin dall'inizio, abbiamo avuto questa idea di insomma coinvolgere anche i designer industriali proprio perché insomma, è fondamentale quando si parla di ausili, di protesi e di dispositivi medici dare particolare attenzione all'usabilità del dispositivo, oltre che ovviamente all'aspetto estetico. Quindi insomma abbiamo messo insieme tecnica e bellezza, e bellezza e praticità, esatto. Mi tolgo una curiosità, perché Annes? Perché si chiama così? Guardi, questa mano? Sì, Annes in realtà prende il nome da Johannes Middel, che è stato diciamo uno dei pionieri della tecnologia mioelettrica con cui funziona anche Annes. Quindi lui ebbe questa idea geniale di andare a utilizzare dei sensori elettromiografici, si chiamano, di superficie, per andare a controllare una protesi. E questo permette all'amputato di andare a controllare una protesi, che di fatto è tecnologica, motorizzata, semplicemente tramite la contrazione dei muscoli. E questo ovviamente facilita molto l'utilizzo. Johannes Middel è stato appunto uno dei pionieri ingegneri, ha lavorato nel centro protesi di Budrio e fece un pochino diciamo la storia del centro protesi di Budrio proprio grazie a questa sua intuizione. Dottor De Bartolomeis, come avete accettato e siccome siete riusciti a vincere questa sfida, dare bellezza, armonia e eleganza ad una protesi? Ma allora, il processo di design è nato proprio da uno studio delle proporzioni e delle posture, e l'abbiamo fatto come fa un designer. Un designer si rapporta con diverse discipline, un po' l'abilità del designer è riuscire a entrare un po' in varie discipline, come dialogare appunto con i clinici, i scienziati, i meccatronici. In questo caso noi siamo partiti proprio da una ricerca che parte dall'arte rinascimentale, quindi dalla mano di Leonardo piuttosto che dai disegni e le sculture che si trovano nell'arte, e le abbiamo collegate ad altri studi antropometrici e quelli con appunto, come diceva prima, con i manichini dell'alta moda. Una delle prime nostre visite è stata proprio un'azienda per capire quali sono i canoni che utilizzano per presentare al meglio i loro capi. Questo ci ha permesso di dare alla mano un design con forme e proporzioni che sono veramente in armonia con il corpo. Allo stesso tempo non volevamo sostanzialmente nascondere la sua natura tecnologica, ma esaltarla con delle proporzioni, delle posture che potessero dialogare molto bene con la persona. Quanti anni avete impiegato per arrivare a questo successo? Beh, noi designer abbiamo iniziato a collaborare con IT e Inail nel 2015. C'era già un concept iniziale, c'è una bellissima foto che racconta questa evoluzione dove si vedono i quattro prototipi, quello appunto da cui abbiamo iniziato fino al prodotto finale, e proprio da questa immagine si vede proprio quello che è stato il processo. Quindi per lato nostro nel 2015 è stato l'inizio del progetto. Ci sono, immagino, stati dei momenti così di difficoltà durante questi anni per arrivare a un risultato che ha meritato questo premio. Ingegner Lafranchi, com'è stata la collaborazione tra gli ingegneri e i designer? Sono figure che hanno una certa consuetudine a collaborare, ma nella creazione di protesi? Diciamo che è stata una collaborazione molto basata sul dialogo, nel senso che e sull'ascolto soprattutto, quindi ascolto delle persone amputate e dei tecnici ortopedici che poi vanno a installare e sanno effettivamente come funziona insomma, il mondo e quali sono i requisiti di questo tipo di insomma, soggetti, e quindi sulla base di quello riuscire poi a trasformarla in qualche cosa che risponda a queste esigenze. Questa è stata la sfida principale in cui ci siamo cimentati noi, sia noi ingegneri, quindi a progettare dei meccanismi che potessero appunto realizzare questi requisiti, e al tempo stesso avere una progettazione congiunta con lo studio di DP, che ci ha dato sicuramente molto supporto su tutta la parte di, se vogliamo, di prodotto proprio, di dispositivo, quindi tutte le funzionalità che magari non rimangono, che permettono alla protesi effettivamente di andare a svolgere il lavoro e di essere pratica come la vuole poi un soggetto amputato. Ma rispetto alle altre protesi, anche quelle di ultima generazione, Annes che cosa ha di più di diverso? Ma la cosa molto interessante è che utilizza un solo motore per portare movimento a tutte le dita, no? E questo la rende particolarmente, come posso dire, compatta e anche, se vogliamo, a basso costo, e al tempo stesso gli dà, rende una naturalezza elevatissima nei movimenti delle dita. Quindi noi abbiamo anche poi dimostrato scientificamente che questo effettivamente accade, che abbiamo proprio un movimento sinergico delle dita durante la presa di oggetti di diverse forme, e c'è effettivamente una somiglianza molto elevata con quella della mano umana. Ingegnere Lafranchi, lei ha detto che è stato fondamentale il confronto naturalmente con gli ortopedici e anche con le persone portatrici di protesi. Qual è stata la loro reazione? Come è stata accolta Annes? Ma guardi, fin dall'inizio è sempre stata insomma, molto apprezzata proprio per questa diversità, come le dicevo prima, che è data da questo tipo di tecnologia. Quindi diciamo che fin dai primi prototipi, noi in realtà abbiamo fatto 5 cicli di prototipazione diversi, fin dai primi prototipi questo dispositivo è sempre stato molto apprezzato proprio perché è unico nel suo genere. E poi mano a mano che si è andato avanti, quindi insomma col dargli una forma effettivamente antropometrica e con un design accattivante, è sempre piaciuta di più. E noi attualmente la stiamo testando su soggetti appunto amputati e continuiamo ad avere queste conferme. Dottor De Bartolomeis, che cosa le ha insegnato questa esperienza? Ma appunto è stato veramente significativo questo lavoro di iterazione e di dialogo appunto anche con gli utenti finali, quindi chi poi va a utilizzare il prodotto. E alcuni messaggi che ci hanno comunicato, quindi anche il discorso di ad esempio la semplicità con cui si riappropriano di alcune capacità, nel senso ad esempio una persona ci diceva posso riprendere a mangiare con la coltello e la forchetta in maniera armoniosa, in equilibrio, e quindi questo forse è stato la sensazione più bella del lavoro a cui stavamo partecipando. Immagino, quindi una naturalezza. Sì, una naturalezza. Faccio riferimento a un'altra fotografia per far un po' immaginare chi ci sta seguendo. Noi abbiamo presentato questa mano per il premio che afferra un arancio, no? E il significato è proprio di una ristabilire un rapporto, ad esempio, con il cibo per una mano è quello di ristabilire anche un rapporto diciamo sensoriale, quindi volevamo proprio trasmettere questo tipo di messaggio. E l'immagine arriva? L'immagine direi che arriva. Un'altra cosa interessante è il fatto che fin da subito volevamo creare appunto un design da una mano bella che potesse essere utilizzata anche così per la sua identità, per il suo design. Spesso si utilizzano anche dei guanti estetici sopra le protesi, però il nostro obiettivo era di poter dare la possibilità alle persone di utilizzare una mano disegnata in un certo modo che avesse un'identità ma che non desse un impatto troppo meccanico e tecnologico, non nasconderlo ma permettere di avere un equilibrio su questa. Sì, infatti è una protesi che riesca a creare un e sia in armonia con il corpo. Io vi ringrazio per averci raccontato questa bella impresa, naturalmente grandi complimenti, ci sentiamo e ci teniamo aggiornati. Complimenti all'ingegner Matteo Lafranchi, complimenti al dottor Lorenzo De Bartolomeis del design del DDP Studio e complimenti per il Compasso d'Oro. Buona giornata, grazie. Buona giornata, grazie. Buona giornata a voi. E per oggi è tutto, vi aspetto come sempre dopo il GR delle 12. Grazie, buona giornata a voi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.